Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Alle 4 del pomeriggio il principe fece dire a Chevalier che lo aspettava nello studio. Appena seduto, Chevalier espose la missione della quale era stato incaricato. Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia al Regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomina a senatori del regno di alcuni illustri siciliani. Le autorità provinciali sono state incaricate di redigere una lista di personalità da proporre all'esame del governo centrale ed eventualmente poi alla nomina regia e, come è ovvio, a Girgenti si è subito pensato al suo nome, principe, un nome illustre per antichità, per il prestigio personale di chi lo porta, per i meriti scientifici, per l'attitudine dignitosa e liberale anche assunta durante i recenti avvenimenti. Il discorsetto era stato preparato da tempo. Anzi, era stato oggetto di succinte note a matita sul calepino che adesso riposava nella tasca posteriore dei pantaloni di Chevalier. Don Fabrizio, però, non dava segno di vita. Le palpebre pesanti lasciavano appena intravedere lo sguardo. Immobile, la zampaccia dai peli biondastri ricopriva interamente una cupola di San Pietro in alabastro che stava sul tavolo. Ormai avvezzo alla sornioneria dei loquaci siciliani quando si propone loro qualcosa, Chevalier non si lasciò smontare. Prima di far pervenire la lista a Torino, i miei superiori hanno creduto dover informare lei stesso e farle chiedere se questa proposta sarebbe di suo gradimento. Richiedere il suo assenso, nel quale le autorità sperano molto, è stato l'oggetto della mia missione qui, missione che peraltro mi ha valso l'onore e il piacere di conoscere lei ed i suoi, questo magnifico palazzo e questa donna fugata tanto pittoresca. Le lusinghe scivolavano via dalla personalità del principe come l'acqua dalle foglie delle ninfee. Questo è uno dei vantaggi dei quali godono gli uomini che sono, nello stesso tempo, orgogliosi ed abituati a esserlo. Adesso questo qui si immagina di venire a farmi un grande onore. Pensava. A me, che sono quel che sono. Fra l'altro anche pari del Regno di Sicilia. Il che deve essere pressappoco come essere senatore. Le idee sue in fatto di senato erano del resto vaghissime. Malgrado ogni suo sforzo, esse lo riconducevano sempre al senato romano, al senatore Papirio, che aveva spezzato una bacchetta sulla testa di un gallo maleducato, a un cavallo incitatus che Caligola aveva fatto senatore, onore questo che soltanto suo figlio Paolo non avrebbe trovato eccessivo. Volle sincerarsi. Ma insomma, cavaliere, mi spieghi un po' che cos'è veramente essere senatori. La stampa della passata monarchia non lasciava passare notizie sul sistema costituzionale degli altri stati italiani e un soggiorno di una settimana a Torino 2 anni fa non è stato sufficiente a illuminarmi. Cosa è? Un semplice appellativo onorifico? Una specie di decorazione? O bisogna svolgere funzioni legislative, deliberative? Il piemontese, il rappresentante del solo Stato liberale italiano, si inalberò. Ma, principe, il Senato è la Camera Alta del Regno. In essa il fiore degli uomini politici del nostro paese, prescelti dalla saggezza del sovrano, esaminano, discutono, approvano o respingono quelle leggi che il governo o essi stessi propongono per il progresso del paese. Esso funziona nello stesso tempo da sprone e da briglia, incita al benfare, impedisce di strafare. Quando avrà accettato di prendervi posto, lei rappresenterà la Sicilia alla pari dei deputati eletti, farà udire la voce di questa sua bellissima terra che si affaccia adesso al panorama del mondo moderno, con tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire. Thank you. Stia a sentirmi, Chevalier, replicò il principe. Se si fosse trattato di un segno di onore, di un semplice titolo da scrivere sulla carta da visita e basta, sarei stato lieto di accettare. Trovo che in questo momento decisivo per il futuro dello Stato italiano è dovere di ognuno dare la propria adesione, evitare l'impressione di screzi dinanzi a quegli stati esteri che ci guardano con un timore o con una speranza, che si riveleranno ingiustificati ma che per ora esistono. Ma allora, principe, perché non accettare? Abbia pazienza, Chevalier. Adesso mi spiegherò. Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa. Siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. In questi 6 ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piede a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci, perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato male o bene. Per conto mio credo che parecchio sia stato male. Ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. In Sicilia non importa far male o far bene. Il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, Chevalier, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi quanto lo è lei, Chevalier, e quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso. Adesso Chevalier era turbato. Ma ad ogni modo questo adesso è finito, adesso la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera parte di un libero Stato. L'intenzione è buona, Chevalier, ma tardiva. Del resto le ho già detto che in massima parte è colpa nostra. Parlava piano, ma la mano attorno a San Pietro si stringeva. L'indomani la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata. Il sonno, caro Chevalier, il sonno è ciò che i siciliani vogliono, ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E sia detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente. La nostra sensualità è desiderio di oblio. Le schioppettate e le coltellate nostre, desiderio di morte, desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte. La nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorso nera o di cannella, il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Non ogni cosa era compresa dal buon Chevalier. Soprattutto gli riusciva oscura l'ultima frase. Aveva visto i carretti variopinti trainati dai cavalli impennacchiati e denutriti. Aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici. Ma anche lui credeva che fossero vecchie tradizioni autentiche. Disse, ma non le sembra di esagerare un po', principe? Io stesso ho conosciuto a Torino dei siciliani emigrati, Crispi per nominarne uno, che mi sono sembrati tutt'altro che dei dormiglioni. Il principe si seccò. Siamo troppi perché non vi siano delle eccezioni. Ai nostri semidesti, del resto, avevo di già accennato. In quanto a questo giovane Crispi, non io certamente, ma lei potrà forse vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro voluttuoso vaneggiare. Lo fanno tutti. D'altronde vedo che mi sono spiegato male. Ho detto i siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze che insieme, e forse più che le dominazioni estranee e gli incongrui stupri, hanno formato l'animo. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e l'asprezza dannata, che non è mai meschino, terra a terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di esseri razionali. Questo paese che a poche miglia di distanza ha l'inferno attorno al randazzo e la bellezza della baia di Taormina, ambedue fuori di misura, quindi pericolosi. Questo clima che ci infligge 6 mesi di febbre a 40 gradi. Li conti, Chevalier, li conti. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. 6 volte 30 giorni di sole a strapiombo sulle teste. Questa nostra estate lunga e tetra quanto l'inverno rosso, e contro la quale si lotta con minor successo. Lei non lo sa ancora, ma da noi si può dire che nevica fuoco, come sulle città maledette della Bibbia. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per 3. E poi l'acqua, che non c'è, o che bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore. E dopo ancora le piogge sempre tempestose che fanno impazzire i torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lì dove una settimana prima le una e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori d'imposte spese poi altrove. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità di animo. Ma mi scusi, Chevalier, mi sono lasciato trascinare e la ho probabilmente infastidito. Lei non è venuto sin qui per udire Ezechiele deprecare le sventure di Israele. Ritorniamo al nostro vero argomento. Sono molto riconoscente al governo di aver pensato a me per il Senato e la prego di esprimere a chi di dovere questa mia sincera gratitudine. Ma non posso accettare. Sono un rappresentante della vecchia classe, inevitabilmente compromesso col regime borbonico e adesso legato dai vincoli della decenza in mancanza di quelli dell'affetto. Appartengo ad una generazione disgraziata a cavallo fra i vecchi tempi ed i nuovi e che si trova a disagio in tutti e due. Noi della nostra generazione dobbiamo ritirarci in un cantuccio e stare a guardare i capitomboli e le capriole dei giovani attorno a quest'ornatissimo catafalco. Posso dare a lei un consiglio da trasmettere ai suoi superiori? Va da sé, principe, esso sarà certo ascoltato con ogni considerazione, ma voglio ancora sperare che invece di un consiglio vorrà darci un assenso. C'è un nome che io vorrei suggerire per il Senato, quello di Calogero Sedara. Egli ha più meriti di me per sedervi. Il casato, mi è stato detto, è antico, o finirà con esserlo. Più che quel che lei chiama il prestigio, egli ha il potere. In mancanza dei meriti scientifici ne ha di pratici eccezionale. È l'individuo che fa per voi, ma dovete far presto, perché ho inteso dire che vuol porre la propria candidatura alla Camera dei Deputati. Chevalier volle fare un ultimo sforzo. Si alzò e l'emozione conferiva pathos alla sua voce. «Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per alleviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale, nelle quali giace questo che è il suo stesso popolo? Il clima si vince, il ricordo dei cattivi governi si cancella, i siciliani vorranno migliorare». Se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive, ai sedara, e tutto sarà di nuovo come prima per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori. Don Fabrizio gli sorrideva, lo prese per la mano, lo fece sedere vicino a lui sul divano. Lei è un gentiluomo, chevalier. Estimo una fortuna averlo conosciuto. Lei ha ragione in tutto. Si è sbagliato soltanto quando ha detto «I siciliani vorranno migliorare». I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei, sia per origine, sia anche, se si tratti di siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza. Rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. Calpestati da una decina di popoli differenti, essi credono di avere un passato imperiale che dà loro diritto a funerali sontuosi. Crede davvero lei, Chevalier, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti mani musulmani, quanti cavalieri di Re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni angioini, quanti legisti del Cattolico hanno concepito la stessa bella follia. E chissà più chi siano stati. La Sicilia ha voluto dormire a dispetto delle loro invocazioni. Perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, se è onesta, se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta, in una parola? Adesso anche da noi si va dicendo, in ossequio a quanto hanno scritto Proudhon e un ebreuccio tedesco del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo stato delle cose, qui ed altrove, è del feudalismo. Mia, cioè, per così dire. Sarà. Ma il feudalismo c'è stato dappertutto. Le invasioni straniere pure. Non credo che i suoi antenati, Chevalier, o gli squires inglesi, o i signori francesi governassero meglio dei Salina. I risultati intanto sono diversi. La ragione della diversità deve trovarsi in quel senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità. Per ora, per molto tempo, non c'è niente da fare. Compiango. Ma in via politica non posso porgere un dito. Me lo morderebbero. Questi sono discorsi che non si possono fare ai siciliani. Ed io stesso, del resto, se queste cose le avesse dette lei, me ne sarei avuto a male. È tardi, Chevalier. Dobbiamo andare a vestirci per il pranzo. Debbo recitare per qualche ora la parte di uomo civile. L'indomani mattina presto Chevalier ripartì e a Don Fabrizio, che aveva stabilito di andare a caccia, riuscì facile accompagnarlo alla stazione di posta. Chevalier pensava: questo stato di cose non durerà. La nostra amministrazione nuova, agile e moderna cambierà tutto. Il principe era depresso. Tutto questo, pensava, non dovrebbe poter durare. Però durerà sempre. Il sempre umano, ben inteso, un secolo, due secoli. E dopo sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene. E tutti quanti gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Si ringraziarono scambievolmente, si salutarono. Chevalier si inerpicò sulla vettura di posta, issata su quattro ruote color di vomito. Il cavallo, tutto fame e piaghe, iniziò il lungo viaggio.